ammetto il mio vero orgoglio che solo mi ha protetto da questa società. Vedo nei miei occhi quel fuoco bruciare, sono nato per lottare e non per subire. Mi sento lontano da quello che poteva essere il mio mondo, sicuramente cambiato, invecchiato probabilmente anche, purtroppo. Io voglio sempre avere l'opportunità di farmi la barba la mattina potendoci guardare allo specchio senza dovermi sputare in faccia.